24 Mattino. Il problema degli operai in agricoltura è che devono lavorare 12-14 ore al giorno, prendere la paga scarsa di una giornata di 6-7 ore, 8 ore, e stare zitti e non avere diritti. Ecco perché si va a cercarli fuori, altrimenti si andrebbero a cercare i nazionali formati con libero pagare regolare. Ma Simone, cosa c'entra? È stata una riflessione quella di Matteo Salvini. Cosa c'entra fuori o dentro l'euro? Simone, non concordo minimamente con quello che hai detto. Come al solito Di Maio fa il pesce in barile. Per le navi all'Egitto l'autorizzazione c'è, come se c'è. Quindi, come al solito, cerca di mischiare le cose quando non sa più cosa dire. Oh, l'ascoltatore fa ovviamente riferimento alla vicenda Regeni e alla vendita di due fregate all'Egitto, che è uno degli elementi di discussione in questo momento all'interno della maggioranza. Ne parleremo tra l'altro più avanti alle 8:20 con Maria Latella e con i nostri ospiti. Sarà l'argomento con il quale apriremo la trasmissione, con una posizione che viene dall'interno del Partito Democratico e che è un po' diversa dalle altre, una posizione di qualcuno che dice: lo dobbiamo fare, queste due fregate all'Egitto le dobbiamo vendere, è un partner fondamentale. La discussione è aperta naturalmente su, da una parte, la realpolitik, se vogliamo metterla brutale, no? E dall'altra la richiesta di verità su Giulio Regeni e più in generale il rispetto dei diritti umani da parte del regime di Al-Sisi. Sulla questione di Salvini e l'euro, l'italietta, gli anni Ottanta, ma guarda, non so se sapete, non so se era una riflessione. Certo, no, c'è questa sorta di tentativo da parte di Salvini di evocazione nostalgica del periodo nel quale l'euro non c'era, dell'Italia degli anni Ottanta. Sappiamo che è un richiamo che ha effetto, perché all'epoca stavamo meglio, spendevamo anche un sacco di soldi, che adesso ci ritroviamo, problema che adesso ci ritroviamo sul groppone. Sulla questione dei lavoratori agricoli prendo per buono, insomma, quello che mi ha detto l'ascoltatore, è un tema, quello dei salari, che abbiamo discusso spesso e sul quale sicuramente ci sarà da tornare. Fatto sta che i dati sulla sanatoria sono quelli che sono, 9.500 richieste contro le decine di migliaia attese, le centinaia di migliaia attese. Questo è il 24 Mattino e questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Sono le 7:21 minuti e 50 secondi. È giovedì 11 giugno. Al microfono sempre Simone Spezia e iniziamo come sempre con un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani e ai titoli dei quotidiani, che molto sono concentrati naturalmente sulla richiesta dalla Procura di Bergamo di sentire il Presidente del Consiglio Conte e la Ministra Lamorgese, la Ministra dell'Interno. Conte e la pandemia, non temo i PM, l'apertura della stampa sul caso Lombardia, non ho nulla da nascondere. Il Corriere della Sera è più politico invece, si parla anche delle zone rosse, del PM che convoca il Premier, Lamorgese e Speranza, e però l'apertura è sul no del centrodestra a Conte. Insomma, il centrodestra non andrà agli Stati Generali. Finisce in procura il caso Lombardia, è il titolo del quotidiano nazionale. Zona rossa, scontro tra PM e governo è l'apertura del Messaggero, che a centro pagina, adesso vedremo se avremo il tempo di arrivarci a leggere questo pezzo, però intanto a centro pagina io vi do il titolo del Messaggero. Non è colpa dei colleghi del Messaggero, per carità, ma è colpa di questi piani che si rincorrono. Adesso ditemi quante volte l'avete sentita questa: statali gli aumenti in base al merito e arrivano i manager. rido perché ci sarebbe da piangere per quante volte abbiamo sentito questa storia degli aumenti basati sul merito per gli statali e dell'arrivo dei manager. Vedremo. IPM da Conte, il titolo del giornale, con Gallera che dice sciacalli anti-lombardi, fermatevi. La Repubblica fa il titolo forte proprio su questo, zone rosse IPM da Conte, ma l'apertura di taglio alto è dedicata agli asili nido, quasi 200.000 bambini senza asili nido, c'è a rischio la riapertura di settembre e c'è anche il problema dei centri estivi, del quale tra l'altro tratteremo alle 8.35, su questi costi esorbitanti, su quello che stanno facendo le città. Ancora magistrati, in prima pagina, sulla Verità, soldi dall'estero a Renzi, IPM aprono un'indagine, segnalazione all'antiriciclaggio per una triangolazione sospetta con una società campana di recente costituzione che ha fatto arrivare 75.000 euro da Abu Dhabi, sarebbe il compenso per una conferenza. Scrive La Verità. Libero, lo show di Conte a Villa Panfili, stati generali a cosa servono? A nulla se non a perdere tempo. Il Manifesto, un ciellino sulla torta, è il titolo. Caos Lombardia, via il braccio destro di Gallera dalla Direzione Generale della Sanità, dentro un manager ciellino cresciuto con formigoni. Avvenire apre sull'omofobia, contro l'omofobia le norme già ci sono, sull'allerta dei vescovi arrivata ieri contro le leggi in discussione in Parlamento. E il Sole 24 Ore sul lavoro, 1,5 milioni di posti a rischio, scrive il Sole. Iniziamo oggi dal pezzo forte, per così dire, che è questa convocazione, o meglio questa richiesta dei PM di chiarire al Presidente del Consiglio Conte, alla Morgese, al Ministro Speranza. Ovviamente ne trovate molte tracce sui giornali, la cronaca l'avete sentita già in GR24, vi voglio segnalare tre cose qua, tre articoli. Il primo è quello del Corriere della Sera, a pagina 4 lo firma Marco Imarisio che torna a ricostruire quelle ore drammatiche, le ore nelle quali a Nembro e Alzano non fu fatta la zona rossa, non furono chiuse le zone di Nembro e Alzano, non fu imposto tutto quello che probabilmente andava imposto. Per necessità di sintesi, scrive Imarisio, useremo i numeri e non le persone. Quelli che arrivano da Alzano, Lombardo e da Nembro nel periodo compreso tra domenica 23 febbraio e il 7 marzo dimostrano una progressione quasi esponenziale dei decessi. Il giorno prima della data di inizio ufficiale del focolaio nella provincia di Bergamo, che ben presto diventerà il più letale d'Europa, sono bastate poche ore per istituire la zona rossa nell'Odigiano, intorno a Codogno, dove era stato appena scoperto il cosiddetto paziente 1. E appunto Marco Imarisio snocciola i numeri. Il 27 febbraio emerge in modo chiaro l'esistenza di un nuovo focolaio di Covid-19. In provincia di Bergamo, infatti, si registrano 72 nuovi casi di positività al coronavirus. Nembro è il quarto comune più colpito di Lombardia, al pari di Casal Pusterlengo, che rientra però nella zona rossa, mentre Alzano è il settimo con 8 contagi. Il 28 febbraio, Marco Rizzi, 28 febbraio, attenzione, Marco Rizzi, primario del reparto di malattie infettive del Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è il primo ad andare contro la corrente. Sentite queste parole. La crescita dell'epidemia è rapidissima, a partire da un focolaio che si è sviluppato dall'ospedale di Alzano. La terapia intensiva e ogni altro reparto sono già saturi. Servono misure di contenimento. E questa è data 28 febbraio, terapie intensive già piene e bisognerà appunto arrivare al 7 marzo alla decisione di rendere zona rossa tutta la Lombardia. Le altre cose che vi voglio proporre su questo tema arrivano dalla Repubblica e dal Foglio. Ed è Sergio Rizzo a pagina 26 che ci porta su quello che tristemente abbiamo visto fino adesso, ossia la fase dello scaricabarile. Dopo l'apertura della fase 2 e in attesa di definire il profilo dell'eventuale fase 3, ecco già iniziata la fase dello scaricabarile. Possiamo immaginare quello che dirà Giuseppe Conte al pubblico ministero di Bergamo, che ha deciso di sentirlo insieme alla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese e al suo collega della Salute Roberto Speranza sulla mancata istituzione della zona rossa, appunto. Se la Lombardia avesse voluto, avrebbe potuto fare di Alzano e Nembro zona rossa, aggiungendo che le regioni non sono mai state esautorate dal potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti. Del resto lo aveva già detto, e queste sono parole che Sergio Rizzo riporta, e sono parole di 2 mesi fa del Presidente del Consiglio. La decisione toccava al governo, è pacifico, aveva già detto Attilio Fontana. Vedremo come andrà a finire, ma non si può non rimanere oggettivamente sconcertati, come ha avuto occasione di lamentare anche il sindaco di Nembro quando lo scaricabarile è cominciato, di fronte a un simile rimpallo di colpe per una classe politica mai disposta ad assumersi neppure superficialmente una qualunque responsabilità e sempre più esperta nello sport di gettare la palla in tribuna, non è certo una novità, tanto che se non ci fosse il rischio di cadere nel grottesco, l'inizio della fase scaricabarile potrebbe essere un sintomo di ritorno alla normalità italiana, scrive Sergio Rizzo. E ancora il Foglio, e qua c'è un grande tema, il tema: che cosa devono fare le procure e che cosa deve fare la politica? E in parte il tema affrontato da Sergio Rizzo, ma insomma qua ci si ritorna con un pezzo che inizia in pagina 1 e finisce in pagina 4 di Hermes Antonucci e che si intitola così significativamente: è partita la caccia alle streghe contro chi ha combattuto la pandemia. Perché? Perché sì, c'è Nembro, Alzano, c'è la mancata zona rossa, c'è la richiesta di chiarimenti alla politica, ma scrive Antonucci, se il dolore e la rabbia dei familiari delle vittime del coronavirus appaiono comprensibili, le iniziative giudiziarie rischiano di trasformarsi in una vera e propria caccia alle streghe, in primis nei confronti di coloro che fino a pochi giorni fa venivano definiti eroi silenziosi e che si sono ritrovati ad affrontare una pandemia che ha colto impreparate tutte le nazioni del mondo. E chi sono questi eroi? Questi eroi silenziosi sono i medici, sono gli infermieri, e il rischio che ovviamente partano una serie di iniziative giudiziarie che li coinvolgono, ovviamente è fortissimo se non ci sarà la possibilità di una sorta di scudo penale. E nota ancora Hermes Antonucci questo: e chi presenta le denunce in procura Bergamo mira soprattutto alla politica. E però il problema è che se si escludono ipotetiche condotte dolose, ma quale politico vorrebbe ammazzare i propri elettori? Le eventuali responsabilità degli amministratori locali e nazionali andrebbero valutate nella loro sede naturale, vale a dire le urne elettorali, di certo non dalle procure. In questo senso appare a dir poco imbarazzante la soddisfazione espressa da Matteo Salvini alla notizia dell'iniziativa della procura di Bergamo. Dopo tante menzogne e attacchi vergognosi, giustizia è fatta, chi ha sbagliato deve pagare, a parte che non si capisce quale giustizia sia stata fatta. Ma ciò che più sorprende è che in questo modo anche il leader della Lega finisce per attribuire ai PM il compito di sindacare le scelte della politica. A chiudere questa prima parte, visto che siamo un po' su questi temi, andiamo un po' più sul leggero, ma si fa per dire, perché c'è un pezzo delizioso di Patrizia Tagliaferri a pagina 12 del giornale, anche un richiamo in prima, e che ci racconta della fantasia delle ordinanze. Ci torniamo ancora una volta su come fare le cose in questo periodo di Covid-19. E c'è l'ordinanza dell'Abruzzo, guardate che è stupenda. Allora, volete giocare a calcetto in Abruzzo? Potete farlo, sappiatelo. Però ci racconta Patrizia Tagliaferri: guai a toccare il pallone senza le adeguate protezioni e soprattutto guai a recuperare il possesso palla tramite contrasto. Ma come fai a giocare a pallone senza fare un contrasto? È impossibile, considerato pericolosissimo in tempi di Covid, non per un'eventuale lesione al menisco ma per i droplets che potrebbero liberarsi nell'aria. Meglio un sano e sicuro intercetto. Vietate anche le scivolate, per non parlare naturalmente della marcatura a uomo. Pausa. State ascoltando un programma offerto da Il lavoro cambia. Cambiamolo in meglio. Inaz.it. 24 mattino. Simone, negli anni 80 l'Italia ce la siamo mangiata. Il debito pubblico dal 60% è andato al 100% e nessuno se lo ricorda. Certo che stavamo bene, ci siamo mangiati tutto. Lungi da me difendere Fontana, però non si può col senno di poi stabilire quali sarebbero stati i pareri da ascoltare. Si sentiva di tutto e il contrario di tutto, come anche ora, perciò. È un ragionamento che sarà da tenere presente anche questo, quali sono stati i consigli degli esperti, cosa hanno detto, cosa non hanno detto. Concordo abbastanza con il ragionamento che appunto faceva Antonucci sul Foglio, ossia il fatto che queste cose andrebbero anche stabilite dalla politica, no? Banalmente dalle urne. Voglio chiedere all'ascoltatore, non penso che il giornalista del Foglio voglia dire che i familiari non debbono denunciare, debbono star fermi perché c'è qualcuno che ci scrive, no? Dovrebbero star zitti e ringraziare, no, assolutamente. Dice Antonucci che, intervistando un medico, dice ci vuole che ci sia una sorta di scudo per cui la colpa grave deve essere contestualizzata alle condizioni emergenziali nelle quali si è lavorato, altrimenti finiamo tutti sotto processo. Questo è un po' il concetto. Sugli anni 80, amico mio, concordo perfettamente. Paghiamo adesso quello che abbiamo fatto allora. Allora, stati generali, ci arriveremo tra un attimo, però intanto vi voglio portare abbastanza rapidamente su cose delle quali, per esempio, si potrebbe discutere negli stati generali. Il famoso tema della burocrazia, la burocrazia che frena tutto. Quante volte abbiamo sentito parlare di riforma della burocrazia, di riforma della pubblica amministrazione? Ormai sono dei mantra che sentiamo in ogni governo. Intanto succedono cose come quelle che ci racconta a pagina 8 il Quotidiano Nazionale. La testimonianza di un'azienda di Ravenna, la Tozzi Green, che ha un progetto eolico da 100 milioni di euro in Puglia e che è bloccato. Perché? Per il Ministero dell'Ambiente c'è un sì, per quello dei beni culturali c'è un no, e quindi è tutto fermo e non si sa chi dà retta. Ci vorrebbe un intervento di Palazzo Chigi. Parla Andrea Tozzi, l'amministratore delegato, che ha scritto al Presidente del Consiglio Conte per dire: ragazzi, muovetevi, cioè abbiamo 100 milioni di investimento da fare, diteci che la sostanza è questa, diteci che cosa fare. Le aziende vogliono sapere questo, non è che mi devi dire sì o no, mi dici che cosa devo fare, molto semplicemente. Il procedimento autorizzativo prevede il concerto di entrambi i ministeri, ma non essendo d'accordo, la decisione è stata rimessa alla Presidenza del Consiglio. E andiamo al cuore del problema, gli iter autorizzativi burocratici con i quali ci battiamo da decenni. I progetti hanno ricevuto l'autorizzazione dal Ministero dell'Ambiente da diversi anni, ma sono stati bloccati perché ha prevalso il parere dei beni culturali, secondo i quali vi sarebbero impatti negativi su territorio, biodiversità e tradizioni agroalimentari locali. Si è innescato il diabolico meccanismo dei pareri discordanti fra diversi organi dello Stato. Ma scusi, dice Tozzi, sarà il Ministero dell'Ambiente a dover decidere se un progetto mette a rischio l'ambiente oppure no? E questa la valutazione dell'imprenditore. A darvene ulteriore testimonianza, un'opera considerata strategica come la TAV, l'alta velocità Torino-Lione, nel racconto del arrivato ieri da Mario Virano, direttore generale di TELT. Insomma, per le approvazioni delle micro varianti esecutive, racconta a pagina 19 della Stampa, le varie strutture ministeriali coinvolte devono dare il loro parere entro 45 giorni, quindi un mese e mezzo. Attenzione! Ma nella realtà i tempi si dilatano e per ottenere il via libera serve almeno un anno e mezzo contro i 45 giorni previsti. Lo scrive il pezzo, lo firma Maurizio Tropeano, appunto da Torino, a pagina 19. Per fortuna che arriva che arrivano i manager nella pubblica amministrazione. Anche qua, scusate l'ironia, per carità, è un piano del governo, non mettiamo in dubbio la volontà dei ministri coinvolti, a partire dalla ministra Dadone, di metterlo in atto, e però quante volte l'abbiamo sentita questa storia. Siamo a pagina 9 del Messaggero con un pezzo firmato da Andrea Bassi che ci racconta esattamente questo. Insomma, anche qua, storia che noi abbiamo sentito mille volte, come quella della, appunto, della snellimento della burocrazia. Nella pubblica amministrazione arrivano i manager e gli aumenti legati al merito. Si va verso l'ordinamento, la riforma dell'ordinamento professionale dei pubblici dipendenti, ma oggi ci sarà il tavolo di confronto, ma indovinate un po', i sindacati chiedono scatti automatici ogni 5 anni. Ecco qua, vedremo come andrà a finire questa vicenda, anche questo confronto. I manager e gli aumenti legati al merito. Quante volte l'abbiamo sentita? Così come è una storia che ritorna, e passiamo su tutt'altro fronte, quella, scusate, no, che se si sovrappongono due parole, una vicenda già sentita, mettiamola così, quella della revisione dei prodotti storici, no, per così dire, a partire dai film e passando per le statue. Qua ritorniamo sul Quotidiano Nazionale, a pagina 14, Chiara Di Clemente firma un pezzo, perché che cosa è successo? È successo che ieri la HBO, come avete anche sentito nei nostri programmi di informazione in GR24, ha deciso che Via col vento del 49, come ben sapete, verrà ritirato per il momento dalla possibilità di vederlo, e poi contestualizzato, e si apre una discussione su quanta della nostra produzione culturale dovremmo rivedere perché non corrisponde a degli standard che sono richiesti adesso. Insomma, chiaramente Via col vento ha degli elementi di razzismo forti, e però è un film di quell'epoca. Infatti il titolo di Chiara Di Clemente è con un punto del pezzo di Chiara Di Clemente e con un punto di domanda. Ma ora, Via col vento, è un film razzista? E l'altra cosa sono le statue, il tema delle statue che vengono abbattute. Ci sono due commenti che forse sono interessanti e sono da leggere, insomma, e arrivano uno dalla Repubblica e uno dal Corriere della Sera. La storia è questa: a Bristol è stata abbattuta e scaraventata in mare la statua di Edward Colston, noto benefattore della città, la cui ricchezza fu accumulata attraverso la tratta degli schiavi. Davanti al Museum of London è stato rimosso il monumento di Robert Milligan, mercante di schiavi. 2 anni fa negli Stati Uniti è esploso il dibattito sui monumenti alla guerra civile, in particolare quelli dedicati ai confederati, Robert Lee e Stonewall Jackson, che guidarono quel conflitto per sostenere la legittimità della schiavitù dei neri. E siamo al pezzo, al commento di Marco Belpoliti, appunto a pagina 31 del quotidiano La Repubblica. Dunque, un dibattito aperto nel quale, insomma, si riportano posizioni anche estreme, a uno studioso di visual studies come Nicholas Mirzoev, che incita ad abbattere tutti i monumenti, si contrappongono le voci di chi non crede che sia giusto dimenticare quanto è accaduto nel passato e ritiene che non sia con questi gesti che si risolvono problemi come il razzismo e la disuguaglianza. Sono parecchi gli studi pubblicati negli ultimi 20 anni che sostengono sia necessario capire perché questi monumenti siano stati creati e che cosa rappresentino per noi oggi. E quindi, due visioni contrapposte raccontate da Marco Belpoliti, invece una visione netta, quella di Beppe Severgnini sul Corriere della Sera, parlando di quest'ipotesi di togliere, di eliminare la statua di Montanelli dai giardini a Milano. Montanelli è morto il 22 luglio del 2001, il grande giornalista. La sua statua fu imbrattata di vernice rosa nel 2019. Che cosa successe? Se la storia non la conoscete, Montanelli, appunto, prese di fatto una sposa bambina per tutta la guerra, come tutte le mogli dei miei ascari. Riuscì ogni 15 o 20 giorni a raggiungermi ovunque mi trovassi, in quella terra senza strade né carte topografiche. una bambina di 12 anni che lui sposò quando fu incorporato appunto all'interno di questo battaglione, il 20° battaglione eritreo, e che appunto dopo si sposò, ebbe 3 figli di cui il primo chiamò Indro. Montanelli non rinnegò mai quello che successe e adesso qualcuno pensa di abbattere quella statua, una idea alla quale Beppe Severgnini si oppone. Nessuno tolga Montanelli dai suoi giardini. Traffico. Mattino. E buongiorno al nostro direttore Fabio Tamburini. Ciao Fabio, come stai? Buon giovedì. Grazie, salute a tutti. Eccoci qua. Allora io metterei insieme due cose, se sei d'accordo, in apertura di questa nostra chiacchierata, su due titoli che avete voi. L'apertura del Sole 24 Ore è dedicata al 1,5 milioni di posti a rischio, ma ci sono due fronti, quello dei lavoratori e quello delle imprese. Raccontiamo sul Sole 24 Ore a pagina 3 che le imprese hanno anticipato la cassa integrazione per 4.300.000 addetti, mentre ancora ad alcune centinaia di migliaia manca l'intervento anche dello Stato. Mentre nel frattempo ci racconta Carmine Fotina che per il fondo per le piccole e medie imprese le risorse sono esaurite in 15 giorni, a testimonianza di una situazione che resta estremamente complessa. Questi numeri che hai citato sono la rappresentazione evidente che il sentiero diventa sempre più stretto e lo diventerà sempre di più nei prossimi mesi. Abbiamo detto in qualche collegamento passato che l'emergenza sanitaria sarebbe alla fine passata e poi avrebbe lasciato il posto all'emergenza economica. È esattamente quello che sta accadendo. Speriamo che non accada anche la terza fase, che è quella della rabbia sociale, perché in situazioni come queste è facile incendiare la prateria, basta una scatoletta di fiammiferi. In tutto ciò dedichiamo la fotonotizia, il Sole 24 Ore dedica la fotonotizia esattamente a un settore industriale in grandissima difficoltà, se vogliamo Fabio, quasi inaspettato, no? Perché si è detto che tutti i settori collegati all'alimentare, all'agricoltura eccetera eccetera tutto sommato avrebbero retto, e invece il settore delle macchine agricole brucia 1 miliardo di fatturato. Ricordo che nei momenti in cui si stava discutendo quali filiere dovevano chiudere, quali filiere produttive dovevano restare aperte, il tema delle macchine agricole è stato uno dei più discussi. Alla fine si è deciso di chiuderlo, per cui diciamo tutta la catena alimentare è stata tenuta aperta, ma non la produzione di macchine agricole. Sia stato opportuno oppure no, si può discuterne, certamente la conseguenza è evidente ed è nei numeri che oggi pubblichiamo su Sole 24 Ore e che hai appena ricordato. Insomma, per l'industria del settore un vero disastro. Decisamente. Oggi c'è un'intervista importante sul Sole 24 Ore, quella che realizza Isabella Buffacchi con il capo economista della Banca Centrale Europea, Philip Lane, che illustra gli strumenti con i quali si sta rispondendo appunto alla crisi post-Covid, ed è quasi un whatever it takes, insomma, no? La BCE è pronta a tutto per rilanciare l'economia, dice Lane. Questa per il Sole 24 Ore è una medaglietta importante. Ringrazio la collega Isabella Buffacchi, corrispondente del giornale in Germania, per averla procurata. Le interviste al capo economista della BCE sono davvero molto rare, ripercorre un po' la strada di Draghi, ve lo ricorderete, quando nel cuore della crisi legata alla precedente difficoltà del sistema economico internazionale, quella dovuta ai derivati, al crack della finanza internazionale del 2007-2008, disse BCE fornirà liquidità ai mercati senza se e senza ma, tutto quello che sarà necessario verrà fatto. E così è avvenuto, e oggi sul Sole 24 Ore il capo economista della BCE va un po' sulla stessa linea. Anche oggi la BCE farà tutto quanto è necessario per non far mancare liquidità ai mercati. È esattamente quello peraltro che stanno facendo la Federal Reserve negli Stati Uniti, ma anche la banca centrale cinese e anche quella giapponese. È impressionante il volume di liquidità che stanno pompando le banche centrali sui mercati. Speriamo che basti. Io sono convinto che basterà. Sì. Serve ovviamente anche la politica, politica che si riunisce, Fabio, che riunisce, convoca anche le parti sociali e che riunisce un mondo vario, per così dire, in questi stati generali che si svolgeranno a Villa Pamphili. L'opposizione ha deciso di non andarci. Io per la verità sono un po' scettico. Di parole ne stiamo sentendo tante, troppe, qui occorrono fatti concreti, magari pochi, ma che abbiano una loro concretezza immediata. L'effetto passerella che si sta rischiando con questa iniziativa di Villa Pamphili fa davvero venire l'orticaria. Non è questo che si aspetta il Paese, questo lo dico al di là degli schieramenti politici, maggioranza di governo, opposizione, cerco di fare una riflessione oggettiva. Attenzione, perché un modo per far diventare l'emergenza economica rabbia sociale è anche quello delle passerelle dei VIP, non ne abbiamo bisogno in questo momento, ripeto, ci vogliono idee chiare, magari poche ma che siano chiare, e soprattutto concretezza. Sì. Basta parole, basta decreti, basta provvedimenti attuativi, ne abbiamo per centinaia di migliaia di pagine, è difficile perfino riuscire a leggerle tutte. L'appello è fatti concreti subito, perché poi arriva l'estate, poi arriva l'autunno, siamo a Natale e tutto andrà a babbo morto, come si suol dire. Grazie, grazie al nostro direttore, direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Ciao Fabio, buona giornata. GR24, ci risentiamo subito dopo con Maria Latella e i nostri ospiti.